Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, questa organizzazione fornirà le prime leve della lotta partigiana, soprattutto in ambito urbano. Saranno infatti loro i primi a prendere le armi in Francia. Con la guerra civile in Spagna l'attività della MOE si ampliò, sviluppandosi anche su un terreno politico e militare. Immediata infatti fu la mobilitazione a sostegno della Repubblica contro i fascisti di Franco. Mentre infatti il Partito Comunista Francese non prendeva ancora posizione, visto il neutralismo del Fronte Popolare, molti militanti della MOE decisero di partire per la Spagna per conto loro. A Parigi, attorno alla MOE, fu creato un comitato di aiuto per la Spagna repubblicana. Partirono così per la Spagna spagnoli, italiani, tedeschi, polacchi dalla Francia. Ancora non erano state costituite le brigate internazionali e passare la frontiera con la Spagna non era semplice. I militanti della MOI che andarono in Spagna assunsero così un ruolo politico-militare sempre più marcato sul terreno dell'internazionalismo. Alla fine del 1939 il Partito Comunista Francese si era ridotto a qualche centinaio di militanti ed anche la MOI fu smembrata dalla repressione e quando la Francia entrò in guerra risultava disorganizzata ed abbandonata a se stessa. La Germania nazista invase la Francia nel maggio del 1940 e il 24 giugno i francesi firmarono la resa. La Germania nazista occupò 3/5 del territorio francese, lasciandone il resto collocato a sud-est ad uno stato fantoccio collaborazionista che venne fondato il 10 luglio 1940. Alla guida era Philippe Pétain. Charles de Gaulle nel frattempo si dichiarava via radio da Londra capo del governo in esilio, chiamando a raccolta l'esercito della Francia libera, trovando supporto in alcune colonie francesi e il riconoscimento degli anglosassoni. Dalla primavera del 1940 in clandestinità, le varie sezioni della MOI iniziarono a ricostituire le loro reti di radicamento in alcune zone ed iniziarono a raccogliere fondi e a diffondere i loro volantini ed i loro giornali. Questo tentativo di riorganizzazione fu però stroncato dall'invasione tedesca della Francia. Poi il Partito Comunista riuscì a riorganizzare intorno ad un piccolo nucleo di quadri che si rafforzò quando in agosto rientrarono gli smobilitati dell'esercito francese sconfitto e quindi fu rilanciata anche l'attività della MOI. Ascoltiamoci quindi l'Internazionale nella versione eseguita dagli Area. We'll be right back. Il 15 agosto 1940 l'Humanité, organo del Partito Comunista Francese, lancia il primo appello alla lotta armata contro l'occupazione nazista. Il 21 agosto inizia la lotta armata con l'uccisione alla stazione della metro Barbe di un ufficiale della Marina da guerra tedesca. Nella Parigi occupata il Partito Comunista Francese riesce ad organizzare azioni contro la penuria di beni essenziali e comizi davanti alle fabbriche, distribuendo volantini e giornali. Per proteggere queste azioni di propaganda dalla repressione, crea nell'autunno 1940 l'Organizzazione Speciale. L'Organizzazione Speciale è composta esclusivamente da membri provati del partito e soprattutto da ex volontari delle Brigate Internazionali in Spagna, francesi e stranieri. L'organizzazione speciale è divisa in due branche, una che raggruppa i militanti francesi e l'altra dipendente dalla MOI che raggruppa i militanti immigrati in Francia e che prenderà il nome di OS MOI. Il gruppo rumeno dell'organizzazione speciale effettua nel giugno 1941 il suo primo deragliamento di alcuni vagoni merci che facevano manovra a Vincennes. L'11 e il 24 luglio l'OS MOI farà deragliare altri due convogli militari tedeschi nella banlieue est. La MOI si struttura formando al vertice dei gruppi di lingua delle direzioni formate da cellule di tre persone, con un responsabile politico, uno per l'organizzazione e uno per la propaganda. Alla base si formano cellule di tre militanti ciascuna, con un responsabile. Ogni sezione della MOI ha rapporti solo col suo livello inferiore e superiore e non hanno rapporti né tra loro né con il partito, con cui mantiene i rapporti solo il responsabile politico della MOI. Si riorganizzano così i gruppi di lingua italiano, polacco, rumeno, ungherese, ebraico, spagnolo e ceco. All'inizio le squadre della MOI dispongono di pochissime armi da fuoco. Solitamente i loro attacchi sono effettuati solo con l'utilizzo di bottiglie incendiarie riempite di benzina ed avvolte in un sacchetto di carta impregnato di clorato di potassio. Rompendosi, le bottiglie prendono fuoco. Vengono così incendiati i pali segnalettici sistemati lungo le strade dai tedeschi. Vengono attaccati gli uffici di assunzione in Germania. Vengono seminati chiodi a quattro punte per far scoppiare i pneumatici dei mezzi da trasporto tedeschi. Vengono tagliati gli allacci telefonici nemici. Gli ex brigatisti internazionali che hanno fatto la guerra civile in Spagna vengono integrati nell'organizzazione speciale. Si formano così i gruppi OS MOI. Le armi e gli esplosivi per questi gruppi provengono dall'organizzazione speciale del partito. A partire dal giugno 1941 l'OS MOI inizia a fare deragliamenti di treni merci tedeschi. Fu così che l'OS MOI iniziò la lotta armata contro l'invasione nazista. Questo significava rintracciare i compagni che avevano combattuto in Spagna, cercare alloggi e coperture adeguate per i nuovi membri. Un militante che si impegnò, ad esempio, in questa attività fu Ilio Barontini. che diventerà uno dei principali organizzatori dei GAP in Italia. Vengono anche organizzati dei gruppi combattenti di giovani che non sono stati in Spagna, complessivamente 40 militanti che però per il momento non hanno armi, ma usano solo le bottiglie Molotov. Nonostante i limiti che abbiamo visto, l'OS MOI fra l'agosto 1941 e il gennaio 1942 riesce a compiere ben 68 attentati, tra cui diversi attentati ad ufficiali tedeschi. Gli OS MOI sono formati da gruppi ristretti fondamentalmente di ebrei, italiani, jugoslavi, spagnoli, rumeni, cechi e ungheresi. Gli attentati allarmano i tedeschi non tanto per i danni materiali provocati, quanto per il senso di insicurezza che era stato creato nelle loro truppe. Il 28 settembre i nazisti promulgano il codice degli ostaggi, in cui si decreta che comunisti ebrei, già imprigionati, sarebbero stati fucilati in numero da 50 a 100 per ogni soldato tedesco ucciso. Il 22 ottobre 100 ostaggi vengono fucilati a Nantes e a Bordeaux. Ascoltiamo ora Bella Ciao nella versione in francese. Un matin, je me suis réveillé. Oh, belle au revoir, belle au revoir, belle au revoir. Un matin, je me suis réveillé. Et j'ai vu l'envahisseur aux partisans. Emmène-moi au bel au revoir, bel au revoir, bel au revoir. Aux partisans, emmène-moi, car je me sens prêt à mourir. Et si je meurs en tant que partisan, oh belle au revoir, belle au revoir, belle au revoir. Et si je meurs en tant que partisan, tu devras m'enterrer, m'enterrer là-haut dans les montagnes. Oh belle au revoir, belle au revoir, belle au revoir. M'enterrer là-haut dans les montagnes, à l'ombre d'une belle fleur. Et tous les gens qui passeront, oh belle au revoir, belle au revoir, belle au revoir, revoir, revoir. Et tous les gens qui passeront, oh, quelle belle fleur. C'est la fleur du partisan. Oh, belle au revoir, belle au revoir, belle au revoir, au revoir, au revoir. C'est la fleur du partisan. Mort pour la liberté. Ma De Gaulle dall'esilio non approva gli attentati agli ufficiali tedeschi, almeno per il momento, e scrive: «Bisogna che tutti i combattenti, quelli dell'interno e quelli dell'esterno, osservino attentamente l'ordine che io do per il territorio occupato, è di non uccidere apertamente dei tedeschi». Il 22 giugno del 1941 la Germania attacca l'Unione Sovietica. Il 21 agosto 1941 l'organizzazione speciale compie per la prima volta un attentato contro un ufficiale tedesco. Quindi, all'inizio del 1942, la MOI dispone di due formazioni parallele. La prima comprende guerriglieri sperimentati e dispone di armi fornite dal partito e di un efficiente laboratorio. La seconda è invece sprovvista di esperienza e di armi. La lotta armata in questo periodo si limita a due sole zone della Francia, Parigi e il Nord. Dalla fine del 1941 la repressione comincia a colpire i combattenti dell'OS MOI. Uno dei primi a cadere è l'italiano Carlo Pozzi, che è stato commissario politico delle Brigate Internazionali in Spagna e successivamente uno dei primi responsabili della lotta armata a Parigi. Nonostante le numerose azioni effettuate dall'organizzazione speciale, in breve si rivelò insufficiente a svolgere i nuovi compiti per mettere in atto una vera e propria guerriglia urbana e a fronteggiare l'occupazione. Era necessario creare un'organizzazione maggiormente allargata, alimentata anche da altri militanti, oltre a coloro che avevano partecipato alla guerra civile in Spagna. Furono creati quindi gli FTP MOI. L'Humanité, il giornale del Partito Comunista Francese, il 7 novembre 1941 pubblica un appello perché sorgano dal suolo della patria nelle regioni occupate gruppi di franchi tiratori. Oltre ai franchi tiratori partigiani francesi, formati e diretti dal Partito Comunista Francese, vengono creati anche gli FTP MOI. Il nome FTP richiamava i franchi tiratori del 1871 decantati da Victor Hugo e al termine con cui i sovietici chiamavano i guerriglieri dopo la rivoluzione del 1917, cioè partigiani. FTP MOI è un raggruppamento partigiano della resistenza interna comunista francese che inizia le sue azioni nell'aprile 1942. I suoi membri sono giovani immigrati comunisti. I membri di questa organizzazione combatterono sia nelle città del nord della Francia occupata dai nazisti, soprattutto a Parigi, sia nel sud governato dai collaborazionisti del regime di Vichy. Negli FTP MOI si fusero le due strutture militari della MOI, cioè l'OS e i gruppi delle sezioni. Pur avendo una struttura organizzativa autonoma, gli FTP MOI erano integrati negli FTP francesi. In poche settimane furono raggruppati circa 100 combattenti, più una ventina nei servizi ausiliari. A Parigi viene creata una direzione composta da tre membri, un responsabile militare, Boris Holban, un responsabile politico, Stefka Karel, ed uno tecnico, Olason Joachim. La struttura prevede alla base piccoli nuclei raggruppati nel giugno del 1942 in quattro distaccamenti, ognuno per ogni gruppo di lingua, ciascuno dei quali è capeggiato da un gruppo di tre militanti, in contatto con gli omologhi della direzione FTP MOI di Parigi. Il primo distaccamento è quello rumeno, composto inizialmente da 20 membri, in gran parte ebrei e da una parte di militanti ungheresi originari della Transilvania. Durante il secondo semestre del 1942 effettuò numerose spettacolari azioni, tra cui una delle più note fu l'attacco a colpi di granata in pieno giorno il 19 ottobre 1942 contro una compagnia tedesca in esercitazione a Montrouge. Nel dicembre 1942 molti dei suoi membri furono arrestati, poi il distaccamento fu ricostruito, divenendo un gruppo di lingua misto. Dopo la grande retata del novembre 1943, il primo distaccamento cesserà di esistere. Il secondo distaccamento è quello ebraico, composto in maggioranza da polacchi, giovani tra i 16 e i 20 anni, che inizialmente può contare su 40 militanti. È stato il distaccamento che ha avuto più vittime. Nel primo semestre di combattimento è il più attivo, ma nell'aprile 1943 subisce i primi arresti e a luglio e agosto viene praticamente annientato e viene sciolto. Il terzo distaccamento è quello italiano, composto inizialmente da 30 militanti. Fu fondato da un militante comunista, Marino Mazzetti. Nell'ottobre del 1943, dopo la caduta di Mussolini, molti rientrano per combattere in Italia, quindi solo 13 combattenti rimangono a combattere a Parigi. Tra il giugno e il novembre 1943 fu comunque il più attivo e realizza 38 azioni. Fino al novembre 1943 non subì arresti, ma fu poi distrutto anch'esso dalla grande retata avvenuta in quel mese. Il quarto distaccamento è quello dei deragliatori ed è un gruppo di lingua misto formato da rumeni, ungheresi e cechi, quasi tutti di origine ebraica. Fondatore è Joseph Bogzov. Inizialmente sono 15. ed agì fino all'ottobre 1943 e non subì nessuna perdita fino a novembre 1943, quando fu anche questo annientato. Fu creato anche nel giugno 1942 un gruppo bulgaro, formato da soli 4 uomini, che hanno in dotazione una sola pistola. Una sera si imbattono in una pattuglia di 2 gendarmi tedeschi, sparano, i tedeschi non hanno il tempo di reagire, vengono entrambi uccisi e le loro armi vengono recuperate. A partire da quel momento l'equipe bulgara porterà a termine molte azioni. Fu poi integrata nel primo distaccamento per compensare le perdite subite nel dicembre 1942. Gli appartenenti a questo gruppo non subirono nessuna perdita o arresto. Furono creati anche dei servizi ausiliari. Forse il più importante era il servizio informazioni, incaricato di individuare gli obiettivi, di preparare le azioni e il ripiegamento. Non aveva contatti con i combattenti, passava i dati raccolti al responsabile militare degli FTP MOE di Parigi, il quale, dopo una verifica, affidava l'azione a un distaccamento, il cui capo sceglieva poi i combattenti più adatti a portare a termine l'azione. Questo servizio non subì nessun arresto fino alla liberazione della Francia. Il servizio venne rafforzato nel 1943 con l'arrivo di 3 nuovi membri. Parlavano tutti perfettamente il francese e si spostavano tutti vestiti correttamente e muniti di documenti di identità irreprensibili. A capo del servizio c'era Cristina Boico. Inoltre fu creato un servizio quadri che si occupava del reclutamento. I gruppi di lingua della MOI reclutavano i combattenti e poi li inviavano al servizio quadri, il quale iniziava un'attenta ricerca sul carattere del futuro combattente, sulla sua vita, sul suo ambiente, sui suoi legami familiari, sulle sue capacità militari e sulle sue preferenze, per poter giudicare la sua capacità di adattarsi alle condizioni molto particolari della lotta armata in clandestinità. Questa ricerca veniva effettuata anche per evitare tentativi di infiltrazione poliziesca. Fu creato anche un servizio tecnico che si occupava delle operazioni di trasporto e custodia delle armi e di un consistente arsenale ereditato dalla vecchia organizzazione speciale, a capo del quale era Michel Patrissiou, ebreo ungherese. Il servizio si occupava anche dei laboratori per preparare gli esplosivi e dei collegamenti attraverso staffette. Il 25 aprile 1942, in una camera d'albergo trasformata in laboratorio, morirono 2 militanti mentre stavano preparando una bomba a scoppio ritardato che esplose accidentalmente. La polizia ne approfittò per tendere una trappola a coloro che frequentavano il laboratorio e riuscì ad arrestare una decina di compagni. Tutti gli arrestati saranno fucilati il 13 agosto 1942 a Mont-Valérien, insieme ad altri 85 ostaggi. Dopo una serie di incidenti mortali nella preparazione e nell'uso degli esplosivi, nel marzo del 1943 la rete di agenti di collegamento e trasporto di armi fu separata dal servizio tecnico. A capo del servizio collegamento e trasporto era Olga Balcic. I membri di questo servizio andavano spesso ad effettuare i recuperi delle armi dopo le azioni. Un altro servizio fondamentale che fu creato fu il servizio medico, che era composto da militanti o simpatizzanti del Partito Comunista. Ad ogni compartimento degli FTP MOI era attribuito un medico a cui rivolgersi in caso di bisogno, ma i medici erano conosciuti soltanto dal capo del distaccamento o del servizio. La direzione della MOI era incaricata di fornire agli FTP MOI il materiale politico, i vestiti, le medicine ed il denaro necessari. Infatti, per evitare problemi o strumentalizzazioni, al contrario degli FTP francesi, gli FTP MOI non si finanziavano con gli espropri. Inoltre, era stato creato un servizio centrale della MOI per i documenti falsi, fondamentali per affittare una camera, per circolare a Parigi, senza essere arrestati durante un rastrollamento o durante un banale controllo d'identità. C'era un'enorme sproporzione di numero fra i guerriglieri ed i loro nemici. Essi erano inoltre male armati, quindi miravano nelle loro azioni a preservare i combattenti, schierando difficilmente più di 3 militanti in ogni loro operazione. Questo rendeva molto veloce l'azione e più semplice il ripiegamento. Le prime azioni consistettero in sabotaggi, incendi di veicoli in sosta, di distributori di benzina e di merci in partenza per la Germania. Poi passarono ad attacchi diretti contro i locali frequentati dai tedeschi e contro distaccamenti di nemici in transito con bombe a scoppio ritardato. Quindi fu la volta delle irruzioni all'interno dei locali frequentati dai tedeschi, con nuclei composti da un lanciatore di bombe e due compagni di protezione. Seguirono poi l'esecuzione di traditori e di militari tedeschi isolati. In totale le operazioni portate a termine dagli FTP MOI fino al dicembre 1943 furono 229. Ascoltiamoci ora una canzone partigiana francese dal titolo Le Chant des Partisans, interpretata da Johnny Hallyday. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes. Ami, si tu tombes. Un ami sort de l'ombre. Ami sort de l'ombre. À ta place. À ta place. Demain, du sang noir. demain du sang noir. Séchera au grand soleil. Sur les routes. Sur les routes. Chantez, compagnons. Chantez, compagnons. Dans la nuit, dans la liberté. La nuit, la liberté. Elle nous écoute. Nous écoute. Chantez. Allez, chantez. Chantez, compagnons. Nel luglio 1942 furono realizzate dagli FTP MOI 23 azioni, in agosto 30, in settembre ancora 30, in ottobre 31, in novembre 30, in dicembre 26. Poi, nella primavera e nell'estate del 1943, gli FTP MOI rimasero quasi soli a portare avanti la guerriglia contro i nazisti a Parigi. I combattenti degli FTP MOI erano divisi in due categorie. La prima raggruppava i militanti che partecipavano alla lotta armata continuando a condurre una vita legale. Venivano chiamati non funzionari e non ricevevano nessuna paga, ma potevano beneficiare, in caso di necessità, di un sostegno economico specifico o di tessere alimentari. La seconda categoria raggruppava i combattenti a tempo pieno, chiamati funzionari. Essi ricevevano regolarmente uno stipendio dal Comitato Militare Nazionale e, se necessario, poteva essere integrato dalla Commissione Centrale della MOI. Concludiamo così la prima parte della storia degli FTP MOI. Continueremo il racconto nella prossima puntata.